Nelle discussioni tra colleghi superiori cercavo la mediazione. Cercavo di interpretare le esigenze della dirigenza senza posizioni preconcette. Non mi lamentavo mai dello stipendio inadeguato alle responsabilità. La tragedia della mia condizione era quella di avere solo responsabilità, ma nessun potere nei confronti dei produttivi, che potevano assalirmi con le loro rimostranze demagogiche. Ci fu un tempo in cui imperò un direttore di stabilimento che assomigliava a Bud Spencer. I suoi modi, in apparenza schietti, piacevano alla truppa, che ingenuamente ne tesseva le lodi, ingannati da un populismo condito da termini dialettali. Bud, il fido Franti, caporeparto silenzioso e furbo come una volpe, tifoso del Milan e di null'altro, riuscivano ad attribuire tutti i disagi degli operai in fase di assemblaggio a presunte manchevolezze del mio ente, l'odiato controllo qualità, indicati, non sempre a torto, come borghesi flaccidi. A volte capitava che un componente desse dei problemi in fase di assemblaggio, pur essendo a norma con le specifiche di prodotto condivise con il fornitore, quindi non scartabile. Non si usciva vivi da questi gorghi infernali. Gli operai, nervosi e poco avvezzi a esaminare la complessità delle problematiche, venivano aizzati contro di me e i miei superiori. Bud e Franti avevano ben assimilato la regola di sempre di ogni potere. Nell'incapacità di risolvere un problema è bene identificare un nemico del popolo su cui scaricare ogni responsabilità. Era una guerra psicologica dilaniante. Il mio diretto superiore Baschieri e l'ingegnere amanti delle Ducati vintage erano troppo deboli per farmi da scudo. Malati di politically correct, nulla potevano contro il granitico Bud, sosia del primo italiano ad aver abbattuto la soglia del minuto nei 100 metri stile libero. Egli metteva la sua imponente fisicità a testimoniare la giustezza delle sue tesi. Al suo fianco il silente Franti aveva lavorato bene sul gruppo delle operaie, dando minimi privilegi alle capobranco naturali e alle opinion leader, creando attorno a sé una cupola impenetrabile che lo poneva al sicuro da ogni critica. E che potevo fare io, misero ranocchio, in un mare di luci a file di dentature multiple? Continuavo a incassare silenzioso. I miei succhi gastrici fermentavano. Mi stavo allevando il male che mi sta di sicuro attaccando in questi giorni. Altro che busta paga. Nemmeno avevo il tempo di leggerla e analizzarne le voci, così preso da assilli quotidiani che andavano a sedimentare senza soluzione, mentre i miei colleghi, che erano riusciti a evitare il fronte della linea di montaggio, spulciavano quelle voci a me incomprensibili per ore e ore, al sicuro nelle retrovie dell'ufficio trasparente, cercando imbrogli. Il collega Pasotti a volte si recava all'ufficio personale per chiarimenti e se ne tornava in ufficio crucciato e sconfitto dopo una mezz'ora buona, tempo sottratto al lavoro, ripromettendosi di beccarli in fallo prima o poi, quelli dell'ufficio paghe, per un errore a suo danno economico. Ma io non avevo pretese economiche, non avevo pretese di vita agiata da gran signore, non consumavo eroina. In quel tempo felice cercavo la serenità e la decenza. Il nostro era uno stipendio medio, io ero una persona media, lavoravo sulla fascia, correvo tutta la partita, portavo palla a colleghi più scaltri. Un borghese piccolo piccolo, che sembrava possedere il distacco della nobiltà nata nell'agio, senza le palle e le malizie del disperato, cresciuto nei quartieri pericolosi. Ora mi direte che l'operatore di un ente come il controllo qualità dovrebbe avere doti simili a quelle di Pasotti piuttosto che alle mie. Per certi incarichi bisogna forse essere antipatici, ma puntigliosi e attenti ai dettagli. Non si dovrebbe mai soprassedere su nulla con faciloneria e fatalismo. Sì, ammetto che Pasotti era un buon tecnico e un burocrate esperto. Sapeva ben districarsi con i fornitori che ci mandavano materiale difettoso e si attaccavano a scuse assurde per non ricevere il temutissimo reso di scarto con addebito al fornitore. Pasotti era un duro, non si perdeva nemmeno davanti a un disegno tecnico di 2 metri quadrati. Era sempre saldo sulle misure e sulle angolature, sulle caratteristiche del materiale da rispettare. Con le sue dita da rapace scorreva la carta e arrivava dritto al punto con la specifica non rispettata. Alzava gli occhi sul fornitore e non diceva mai una parola di troppo. Io invece, Quando mi chiamavano dalla portineria per andare a raccogliere un fornitore convocato, mi perdevo inconvenevoli, ero troppo gentile e accomodante. Poi, quando cercavo di tornare a una parte più inquisitoria, non riuscivo a ritrovare il timone. Quello se ne andava senza danno e i produttivi erano sempre delusi dai miei risultati. A causa della mia inefficienza, a loro toccava montare con fatica materiale scadente e al peggio avremmo potuto avere grossi problemi a valle, dando un prodotto difettoso al nostro cliente. Capirete che la notte dormivo agitato o non dormivo affatto, mentre al buon operaio produttivo la notte di certo scivolava via in un sonno unico. Anche Pasotti non doveva avere problemi di insonnia. Anche noi avevamo un ufficio di plexiglass trasparente. Eravamo tutti chini sui nostri carteggi con il calibro in mano e un disegno tecnico sulla scrivania. Si trattava di un altro rettilario. C'era una maldicenza per ogni persona che transitava fuori. Una qualifica offensiva, poco fantasiosa e standardizzata su ogni vittima che poteva solo intuire il nostro gioco crudele, senza averne le prove. Per noi dell'ufficio qualità, fuori brulicava un ambiente da bassa periferia, pieno di puttane, froci, drogati, mongoli e cornuti. Era appunto Pasotti a guidare la regia dell'insulto automatico. Quando uscivo dall'ufficio e notavo le labbra dei colleghi in movimento, ero certo che avessero una qualifica anche per me. Mentre si capiva dalla mitezza dei miei commenti sui passanti che non facevo parte della loro casta, che ero solo un usurpatore. Non saprei con quale termine mi apostrofassero. Né voglio sbilanciarmi in ipotesi, ma domani spero che qualche raffica spettini sulla fronte il pur valido Pasotti. Nemmeno lui merita un trattamento speciale, un'esecuzione privata. Bud Spencer, direttore di stabilimento tra i più amati dalla teppaglia ignara delle sue strategie, guadagnò in fretta una pensione dorata. Franti lasciò dopo qualche anno il ruolo di responsabile delle prime linee di assemblaggio a catena per iniziare un'ascesa che lo portò a uno stato di totale inoperosità ben retribuita. Come posso affermare questo? Ho le prove di quanto vado scrivendo? Ovviamente no. State pensando che le qualità di Franti gli consentono di lavorare poche ore al giorno, ma con grande classe e mirabile competenza, senza apparente affanno, risolvendo problematiche determinanti per il nostro stabilimento e di cui io, misero serviceman, sono inconsapevole? Pensate un po' quello che volete. Ai tempi del grembiolino bianco avevo partecipato all'attività di Suggestion Plan, proposte migliorative riportate ai propri capi reparto e sottoposte settimanalmente a un team di saggi che ne valutavano l'applicabilità e l'efficacia. Tutto regolato da punteggi, classifiche, premiazioni finali alla presenza delle più alte cariche aziendali e dei familiari dei dipendenti premiati. Attraverso piccoli suggerimenti puoi migliorare la tua vita nell'ambiente di lavoro, rendendolo vivo e palpitante, senza subirlo, neutralizzando passività e resistenze. Devi chiederti cosa puoi fare tu per la tua azienda, parafrasando indegnamente un maniaco sessuale di bella speranza e presenza cui spararono in testa. Lei, l'azienda, già si occupa del tuo mutuo e del mantenimento di altri vizi. Lavori in una delle aziende migliori di una delle zone del paese più evolute. Non hai diritto di piantare grane. Oltre il tornello c'è un mondo di contratti a tempo determinato da strappare dai denti di africani e gente dell'Est Europa. Avevo presentato una proposta tesa a migliorare il just in time, il numero di pezzi di fornitura esatti nei tempi precisi, senza accumuli di magazzino. Le giacenze di magazzino sono denaro fermo, denaro perso. La mia trovata, scopiazzata in modo ignobile da qualche libercolo, era rischiosa. Si giocava su un equilibrio esposto a ogni pericolo. Un ritardo nei trasporti, un qualunque imprevisto, avrebbe potuto prosciugare le scorte e fermare la produzione. I tempi non erano ancora maturi e la nostra solidità economica non richiedeva il fuoco dell'innovazione. Prima di essere degradato, andavo a redigere nuove procedure e a modificarne altre obsolete. Occorreva numerarle, secondo un progressivo che si perdeva nell'età feudale dell'azienda. In questi documenti venivano descritte operazioni completate da foto esplicative. A causa della mia inettitudine tecnico-burocratica c'era un omino ad aiutarmi. Il responsabile mi accompagnava fin sulla soglia del suo ufficio, bussava e mi lasciava da solo. Mi sentivo colpevole di qualcosa, come uno scolaro in presidenza dopo una nota disciplinare. Aspettavo si aprisse la porta con un sinistro scricchiolio che urlava lubrificante ai cardini. L'omino aveva occhiali con la montatura sottile, un corpo gracile e la gentilezza di tempi lontani. Borghesia di estrazione statalista, modello Fiat anni 80. Un uomo dotato di calma e ordine mentale, proiettato verso una pensione agognata e temuta come la morte. Una pensione che avrebbe segnato l'annullamento definitivo di una razza in via di estinzione, la sua. Durante la nostra collaborazione mi meravigliavo di come non perdesse il controllo di fronte a qualunque groviglio burocratico, anche quello più contorto e barocco. Trovava sempre il capo del gomitolo. Io, alla prima difficoltà, iniziavo a strofinarmi gli occhi, in bilico tra nervosismo e narcolessia. Mi stupivo di come catalogasse scrupolosamente ogni maledetto documento riguardante certificazioni o procedure, di come tutto quel disordine cosmico avesse un senso e quei puntini luminosi fossero costellazioni identificabili. Stava con lo sguardo fisso al monitor del PC. Le divagazioni che non riguardavano il lavoro erano ridotte all'essenziale. Ogni 2 ore si portava una mentina verso le labbra sottili ed esangui, con un movimento misurato ed identico. Le pasticche del resole che teneva nel cassetto erano la sua unica trasgressione. Non faceva altre pause, non frequentava nessuna area caffè, ma non aveva parole di biasimo per la nuova borghesia caciarona che bivaccava decine di minuti, improvvisando volgari parti aziendali, prendendo a scusa compleanni o altre ricorrenze idiote. Io cercavo di emularlo nel suo ascetismo, non mi lamentavo e stavo concentrato sulle carte, anche se con risultati mediocri. Non ero efficiente, avevo scarse capacità di concentrazione, ma almeno potevo essere disciplinato. Le visite ispettive di grossi clienti e degli enti certificatori sono nelle mani di modesti figuri come l'omino dai modi gentili. I sacerdoti si prendono tutti i meriti dell'oscuro lavoro delle formichine. A pericolo passato improvvisano riunioni dove spargono qualche briciola di ringraziamento, sorrisi e buon umore. Un giorno con i polpastrelli percorsi l'ideale profilo di una porta di cui ricordavo l'esistenza, che era scomparsa. Ero certo fosse il punto esatto dove avrebbe dovuto trovarsi l'ufficio dell'omino. Non potevo sbagliarmi. Stava in angolo, a un paio di metri da un bagno e altrettanti dall'ufficio spedizioni. Bussai con l'orecchio incollato alla parete in corrispondenza della zona dove avrebbe dovuto trovarsi la porta dell'ufficio fantasma. Colpi sempre più forti, disperati. Sentii il vuoto, un eco sordo che confermò la presenza di una cavità a pochi centimetri. Avevo bisogno di un piccone. Un paio di femmine del controllo di gestione, invece di prestarmi fede, mi scacciarono come la peste con un gesto della mano, come ci fosse uno sciame di mosche. Mi scansarono e si buttarono sulla destra. «È il pazzo, trombato dalla qualità! Vade retro!» Le avevo interrotte, stavano parlando di un operaio carino, uno che guida i muletti. Buffo, come la forza ormonale a battere le divisioni di casta. Io ero preoccupato per l'omino delle procedure, me ne fregavo dei loro pruriti. Era uno dei pochi che era stato cortese con me. La sua voce era un filo esile, non avrebbe mai superato il cartongesso. Un uomo della manutenzione sgranò gli occhi. Come poteva sostenere di non avere picconi o attrezzi simili? Non vogliono mai rogne, manutentori. Pestò forte sui pedali della graziella e sparì sotto il porticato esterno. Avrei dovuto prendere lui a colpi di mazza. Non restò che rassegnarmi e chissà che brutta fine fece l'omino. Morto di stenti, morto male, seppellito vivo. Una crudeltà incomprensibile, direte voi, assurda. Mancherebbe un'ombra rimovente. L'omino parlava sempre della pensione, di quanto poco gli rimanesse per raggiungerla. Un'esistenza a un passo dalla pensione, fin dal giorno dei giorni, il primo giorno della prima assunzione. Una vita non rettilinea con la liberazione nel tratto finale, ma concentrica, con il traguardo posto in mezzo, in un buco nero, e le circonferenze di perimetro a decrescere, anno dopo anno, fino alla stretta finale. Un traguardo in apparenza liberatorio, in realtà opprimente, gravido di minacce. Gli organi interni collassano, si infiammano e scoppiano. Quelli come l'omino non sarebbero sopravvissuti che pochi anni fuori dall'azienda, o pochi mesi. Fuori dal tornello della timbratura sono preda di malattie terribili. L'energia vitale non trova canalizzazioni logiche e virtuose. L'organismo entra in confusione, vengono a mancare i ritmi lavorativi, reiterazioni delle abitudini che tengono alte le difese immunitarie. Il cervello elabora contromisure inadeguate. Il bricolage, il modellismo sedativo, il volontariato, le gite con il prete nei mesi primaverili, le camminate serali anticolesterolo, varie forme di collezionismo, tutto inutile. Prendono corpo altre due forme di vita, la vedova e la reversibilità. Non posso essere sicuro della sua fine e non mi aspetto che voi crediate a questa mia versione. È noto come nei campi di concentramento organismi essenziali come quelli dell'omino delle procedure hanno resistito più a lungo rispetto ad altri in apparenza meglio attrezzati. E proprio in una situazione estrema come quella della muratura in ufficio, uno come l'omino avrebbe potuto dimostrare risorse fisiche miracolose, rallentando i battiti cardiaci, risparmiando ossigeno, nutrendosi di muffe e insetti. Quando in mensa resi partecipi commensali della triste vicenda dell'omino, nessuno mi prestò fede. Nessuno si scostò un millimetro dalle tesi negazioniste così in voga in azienda. Pifferi, dell'aftermarket, su mia insistenza finse di non aver mai sentito nemmeno il nome dell'omino in vita sua e affermò di non conoscere nessuno che corrispondesse a quella descrizione. Oppure ne aveva conosciuti a decine con quelle caratteristiche, ma non il mio omino delle procedure. Ma Pifferi è un maledetto. Farebbe violentare la madre da una banda di slavi per un posto macchina interno. Nemmeno Pifferi vuole rogne. Da quando sono stato trombato, ha preferito non rivolgermi quasi più la parola, come fossi infettato. Un tempo parlavamo di gestori telefonici, mi consigliò un piano tariffario molto conveniente. A volte al tavolo lo fisso, cerco un cenno da parte sua che rinnovi la vecchia amicizia. Lui si scuote dall'imbarazzo con qualche battuta a sfondo sessuale. Secondo lui, le minori pressioni psicologiche derivanti dalla mia bassa professionalità dovrebbero favorirmi l'erezione. È sempre stata la mensa il luogo dove ho verificato la mia solitudine. Il più delle volte me ne rimango immobile, con il mio cabaret ingombro di pietanze, e in pochi secondi devo decidere a quale tavolo sedermi. La scelta è gravida di paure e qualche speranza. Paura di toccare con mano il fastidio che sembro recare a tutti. Capita che, una volta seduto, gli altri commensali si alzino dopo pochi minuti, troncando discorsi che parevano accesi. Accarezzo l'ipotesi di attaccare bottone con qualche pregiata segretaria rimasta isolata dalle altre femmine della sua specie. Dopo il siluramento, sono entrato in guerra e cerco per lo più di mangiare da solo, di non dare alcuna confidenza. Mi fa gioco darmi aria da disadattato cronico, ostentare una follia che mi piace pensare venga giudicata pericolosa. Ma ogni persona che supera il mio tavolo senza sedersi lascia tracce nel mio animo, microfratture emotive. Mangiare da soli richiede doti non comuni. Se fissi solo il piatto o il bordo del cabaret, sembra un partito preso, una forzatura che denota insicurezza. Se alzi lo sguardo e fai una panoramica, devi stare attento a farlo molto lentamente, senza tic nervosi della mano o di una gamba. Se rovesci l'acqua, se sbagli nel portarti il cibo alla bocca, allora è facile sbagliare le mosse successive in sequenza e arrivare alla soglia del panico. Alzarsi senza aver finito il cibo è un grave errore. Sarà facile ipotizzare che non si è sopportata la tensione della solitudine. Mangiare da solo è un'altra prova a cui mi sottopongo per fortificare lo spirito e rivendicare la mia autarchia emotiva. Dopo aver narrato la storia dell'omino, mi chiusi in bagno per la disperazione. Mi ero esposto pubblicamente senza ottenere nulla. Non potevo fare altro per lui. La fitta allo stomaco non mi mollava più ormai. Iniziai in quei giorni a evacuare materia molliccia e puzzolente, non troppo liquida, a essere preda di un incubo ricorrente. Ero a scuola, ragioneria, ma i miei compagni di classe erano in realtà i miei attuali colleghi. A metà anno un professore stanco delle mie impreparazioni mi costringe ad abbandonare l'aula, mi intima di sparire. Lo fa platealmente, con un solenne discorso. I compagni non infieriscono, ma il loro silenzio è per me punitivo, un assenso. Sono tutti dalla parte del professore. I prigionieri sono dalla stessa parte dei carcerieri, tutti tesi a eliminare le scorie asociali. Feci un giro di perlustrazione in tutti i reparti produttivi. Erano scomparse le procedure redatte e firmate dal mio omino, sostituite da altre, molto simili nella sostanza, ma più curate nella forma. Le foto e l'impaginazione erano figlie di tecnologie recenti. Le firme nella parte alta del foglio appartenevano a esponenti della nuova borghesia emergente. Se torno indietro con la memoria, riaffiorano fogli con didascalie battute a macchina e polaroid attaccate col biadesivo. Foto di reparto ingiallite, grembiuli e abbigliamento ridicolo, contratti a tempo indeterminato per gente determinata a morire ogni giorno. A che era geologica risale la mia collaborazione con l'omino? Magari alla fine andò in pensione. Non esiste nessuna cavità con i suoi miseri resti. Le persone al mio tavolo, forse, non potevano ricordarlo perché assunti dopo la sua scomparsa. Ho perso ogni riferimento temporale. Forse al tavolo racconto aneddoti su persone decedute o che non lavorano più in questo posto da decenni. Sopravvivo a questo posto e ai suoi fantasmi in un tempo fermo? Sono impermeabile a ogni mutazione? Dicono che parlo da solo. A me non pare. Parlo con ombre che solo io vedo? No, davvero. Mentono per buttarmi fuori gioco. Esistono varie verità, e di questo dovete darmene atto. Esistono verità di diversa qualità. Io a volte sento dei lamenti sfilacciati. Il fenomeno si presenta nelle pause produttive, specie durante le riunioni sindacali, quando tutti i reparti si fermano contemporaneamente e cala un silenzio relativo. Io tardo a raggiungere la sala, entro in frequenza e capto le lagnanze rassegnate dell'omino. A volte nei lunghi pomeriggi estivi sento rumori ben più fastidiosi. Marani tiene topi disidratati dal veleno nei cassetti del suo ufficio sempre chiuso a chiave. Gli piace il rumore delle bestie morenti che sbattono contro le pareti metalliche. Aspetta l'ultimo colpo e l'odore dolciastro che impesta l'aria se il veleno ha agito male. Marani alleva topi che circolano indisturbati nel suo ufficio. È possibile sentire piccoli rumori raccapriccianti da dietro la porta, per lo più quello delle zampette sul legno. Una volta all'anno vengono gli uomini della deratizzazione. Lui li chiama in ufficio e si fa lasciare centinaia di bustine di veleno. Gestisce da solo la questione. Li avvelena lentamente, con metodo. Le bestiacce che si annidano negli angoli, sotto gli scaffali, sono più o meno vivaci a seconda del livello di intossicazione. Marani segue il loro comportamento per avere conferma di alcune sue teorie. Ci sono evidenti analogie tra il comportamento dei topi e quello degli uomini. Capita che i topi più in salute si accaniscano contro quelli più deboli. Si formano tribù, clan. A volte due topi deboli si alleano per reagire. Raramente. Di norma, una volta individuato l'esemplare più indifeso, proprio quello che non reca minaccia o disturbo alla comunità, questo viene attaccato dal branco. Dopo la sua morte segue un periodo di fibrillazione anarchica. Si cerca la nuova vittima. Una volta condivisa la scelta fra almeno due topi forti, il gioco al massacro può ricominciare. L'ufficio di Marani è sempre molto disordinato e sporco. Un paio di volte sono riuscito a metterci il naso. Tiene lui le uniche chiavi. Nessuna donna delle pulizie ha accesso al suo loculo. Marani mi teme perché sono l'unico a essere a conoscenza del fatto che non è l'ultimo a lasciare l'azienda. In realtà non lascia mai l'azienda, dorme nell'oculo. Anche lui ha lo screensaver mendace. Non ha nessuna famiglia o l'ha persa. Una mattina alle 5 è uscito a sgranchirsi le gambe. Io ero nel parcheggio, con gli occhi già sbarrati sul tornello. Ho capito tutto. Lo tengo in pugno per questo segreto condiviso. Forse dovrei temerlo. Lui ha molto da perdere. Un hobby del genere non sarebbe perdonato a un dirigente. Quando racconto queste cose, qualche segretaria dal culo delicato non manca di uscire dalla mensa con il palmo che le schiaccia la bocca, per la faccenda dell'odore dei topi morenti. Non so più cosa inventare per delegittimare il sacerdote che seduce il gregge. L'ammirazione e la fede della marmaglia verso Marani è incrollabile.